Ecco, la Fogarina è proprio un classico esempio di voler riscoprire qualcosa che era stato proprio perduto. La Fogarina è un vitigno autoctono che proprio la sua origine la vuole far nascere proprio alla foce del Crostolo, che fu scoperta alla foce del Crostolo da Mazzoni nel 1800, ed era praticamente la base del vino della Bassa Reggiana. Il vino veniva fatto con l'uva Fogarina. Era la principale vitigno che veniva impiegato nei maggiori vini, nei migliori vini del nord Italia, perché aveva proprio anche le particolarità che aggiustava le acidità, metteva a posto praticamente i vini alti, che praticamente erano troppo maturi, la Fogarina aveva proprio il pregio di aggiustarli. Purtroppo anche questo con l'avvento della chimica. La chimica ha soppiantato questo vitigno e quindi dagli anni 60 in poi la Fogarina non è più stata impiegata massicciamente in enologia, anzi pian pianino è stata abbandonata. Al che Senti, praticamente. ma io volevo chiederti un'altra cosa. Perché il tuo lambrusco è buono e normalmente il lambrusco è cattivo? Anche qui. Ma se il lambrusco viene fatto in un determinato modo, in un modo artigianale, usando un vitigno autoctono tipico di quella zona, rispettando una produttività accettabile, usando praticamente un criterio artigianale, una dimensione della piccola azienda agricola, così come era una volta, così come tutti quanti un tempo si facevano il lambrusco in casa e tutti bevevano, pur non sapendolo, un ottimo bicchiere di vino. Ora quello che purtroppo non c'è, è rimasto, ci sono le dovute eccezioni, la Fogarina e il nostro Lambrusco è proprio l'eccezione che non fa magari la regola, però ci sono uno dei pochi esempi dove si può bere ancora il vero Lambrusco, perché noi quando lo facciamo assaggiare non ci sforziamo di dire ma questo è il vero Lambrusco, voi bevete, state bevendo quello che è un ottimo vino, proprio che fa bene sia al palato, ma soprattutto al corpo, ed è proprio la caratteristica che differenzia chiunque, chi lo assaggia questo vino dice, ma com'è buono. E questa è l'espressione, quando uno assaggia questo vino qua, dice, ma com'è buono, al contrario di dire, ma dopo, ma è lambrusco. Lì, è proprio la classica reazione che dà anche soddisfazione, dire, meno male che è come, ormai dopo si vive quasi come una missione, dire, noi stiamo dando del buon Lambrusco, diamo una buona immagine a un prodotto che in effetti come il Po è stato pian pianino un po' abbandonato.